Bentornati a Radio Italy. Questa puntata è dedicata all'estate, che è una stagione molto cara agli italiani, ma che sembra ormai morta a Shanghai. Sono già 20 giorni che la città è caratterizzata da acquazzoni e cattivo tempo. Radio Italy. Le vacanze sono alle porte. Il 74% dei cittadini resterà in patria, mentre il 18% preferirà l'estero. E un viaggio che verrà affrontato con un budget medio di 840 euro. Gli italiani preferiscono il mare e infatti il 68% degli italiani non ci rinuncia. Questi sono i dati del Corriere della Sera. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare. C'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Dove preferiscono andare in vacanza gli italiani? Quali sono le mete preferite degli italiani? Al primo posto c'è la Croazia, poi la Spagna, la Grecia e a seguire la Francia, il Regno Unito, gli Stati Uniti. E nella top 10 compare anche la Thailandia, che è una novità per il 2015. Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno, cadranno neve, coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. tuo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. E con l'arrivo dell'estate gli italiani non rinunciano alla tintarella. È vero o no, Mina? Radio Italy Rewind finisce qui, grazie per avermi seguito e vi lascio con un altro classico della canzone italiana dell'estate, sapore di sale, sapore di mare. Ciao da Rocco! Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua,